Con Azione Antifascista Roma Est per parlare dell'Antifa Roma Festival a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, 13 e 14 ottobre. Ben trovati e dato che siete più persone, vi alternerete nelle risposte. Cominciamo presentando il festival. Ciao a tutti. Allora, il festival sarà il 13 e il 14 ottobre al Forte Prenestino e diciamo che è nata l'idea ormai qualche mese fa, nel senso che noi di Azione Antifascista Roma Est abbiamo tutto l'anno scorso fatto, diciamo, delle cose nel quadrante di Roma Est, aiutando gli studenti delle scuole a organizzarsi, diciamo, contro gli attacchi dei fascisti che venivano fatti fuori dalle scuole. Abbiamo proposto anche delle iniziative culturali. Insomma, diciamo, il festival di quest'anno raccoglie un po' quello che è stato fatto l'anno scorso da noi, ma anche da altri gruppi che sentivano l'esigenza di confrontarsi con questo fenomeno complesso che è il neofascismo in Italia, cercando di provare a tentare, diciamo, delle sperimentazioni, delle soluzioni, qualcosa di questo tipo, insomma. Si tratta di una prima edizione, come sarà strutturata? Allora, il festival inizia il giovedì 11 con una proiezione al cinema del Forte Prenestino del documentario Punching the City di Mariella Bussolati, che è una regista di Milano che pratica la boxe popolare, ha voluto realizzare questo documentario proprio sul pugilato nelle palestre popolari in giro per tutta Europa, Italia-Europa. E lo presenteremo fra l'altro con la regista stessa e degli ospiti che vengono dalla palestra popolare di Salonicco in Grecia, che hanno svolto negli anni anche un importante lavoro proprio con l'antifascismo militante. Quindi è un documentario che intanto introduce quello che è una risposta antitetica al fascismo, quindi alla condivisione dei saperi, uno sport non violento e tutto quanto. Insomma, poi per chi è interessato ci venga a trovare giovedì 11, che appunto parleremo di questo, non solo vedremo il film. Poi venerdì 12 ottobre ci sarà la presentazione del libro Combatti la paura, che è stato prodotto proprio in occasione di questo festival dall'Azione Antifascista Roma Est, ed è un libro che verrà presentato al BAM alle 7 di sera di venerdì 12. È un libro che raccoglie sia interviste che testi e racconti di fantasia e tavole di disegno e fumetti sul tema dell'antifascismo, proprio per, questo è un ulteriore tentativo che abbiamo avviato, di ripensare anche i linguaggi dell'antifascismo, quindi come veicolare i valori che difende l'antifascismo stesso e come provare a rappresentarli e per raggiungere anche un pubblico più ampio di quello che è, diciamo, naturalmente interessato a questi temi. Dopo la presentazione di venerdì 12, il sabato 13 inizia, diciamo, il vero e proprio festival, che vede le due giornate di sabato e domenica divise tematicamente. E sabato ci saranno delle presentazioni, una alle 4 e quella successiva alle 7 di sera, sul fascismo. Il fascismo e modernità, e quindi anche sguardi di fascismo antropologico, presentato da Donatella De Cesare e verrà curato da QuiEora.inc. Alle 7 si parla di elementi d'inchiesta, quindi del fascismo del terzo millennio tra organizzazioni neofascismo e autoritarismo di Stato. Saranno ospiti Davide Conti, Elia Rosati, Pietro Saitta e Charlie Barnau, e si parlerà di come queste organizzazioni negli ultimi 10 anni si sono molto ben strutturate, con degli obiettivi che quelli che forse stiamo iniziando a vedere che stanno raggiungendo in termini di coinvolgimento e specialmente di comunicazione. Quindi un po' di sabato è un po' più dedicato alla comprensione di quelli che sono i meccanismi che hanno funzionato nell'ultradestra e nel fascismo, ed è un modo anche per interrogarci su quelle, appunto, perché sono state efficaci queste pratiche e su che cosa hanno fatto presa nella cittadinanza. Poi la sera si cena, sempre con tutto il Forte Prenestino in piena attività, e alle 22:30 inizierà il concerto di pop antifa militante con ospiti Nadir, Kento e DJ Footsten, Kuba Cabal, e seguito poi da un DJ set sempre seguito da Footsten. Quindi questo è il sabato che è dedicato più appunto alla conoscenza e all'avvicinamento di quello che è il fascismo nella modernità, e ovviamente ci siamo voluti concentrare su questo, ecco, non tanto andare a scavare le questioni storiche legate al fascismo, appunto storico, eccetera, eccetera, ma iniziare a osservare anche la forma più diffusa del fascismo, la forma più gassosa, che è quella che è penetrata nelle istituzioni istituzioni, nel modo del linguaggio dei rappresentanti istituzionali, nel linguaggio della gente per strada, il fatto che si stia sdoganando con estrema facilità tutta una mentalità di tipo razzista e sessista che giustifica atteggiamenti violenti e aggressivi, questo è per noi già una forma molto concreta di fascismo e la vogliamo un po' capire un po' meglio, ecco. Sì. E, per la domenica te passo la parola all'altro mio compagno che vi spiega cosa succederà di domenica. Sì, di domenica si riparte, diciamo, la mattina presto con un po' di sport popolare, perché pensiamo che il valore, diciamo, dello sport popolare come spazio eterogeneo, anche di collegamento tra quelli che sono gli spazi sociali e il quartiere in cui sono inseriti, sia molto importante, e quindi ci sarà un allenamento collettivo in vari stili, di Muay Thai, K1, Taekwondo, in box, insomma ci si allenerà tutti insieme praticando delle tecniche di autodifesa, per arrivare poi a uno stage curato da un ragazzo della palestra popolare di Vry a Parigi di MMA. MMA, per chi non lo sa, è Mixed Martial Arts, cioè una composizione, diciamo, di varie arti marziali e sport da combattimento. Poi si pranza tutti insieme e invece, diciamo, poi prosegue nel pomeriggio con il vero e proprio, diciamo, iniziativa dibattito Combatti la paura, distruggi il fascismo, che è uno slogan che noi stiamo portando avanti ormai dall'anno scorso e che prova, diciamo, a connettere, a mettere in relazione varie esperienze italiane, romane, italiane ed europee in un dibattito, diciamo, che noi ci aspettiamo molto ricco, perché abbiamo invitato, diciamo, vari gruppi dalla Grecia, sia da Atene che da Salonicco, dalla Francia e da Parigi, e vari, diciamo, gruppi a livello italiano, perché, diciamo, pensiamo che ognuno a suo modo ha fatto, diciamo, una grande parte, diciamo, contro questo fenomeno dell'espansione delle organizzazioni neofasciste, e che connetterle, iniziare a parlarsi, diciamo, in un senso un po' strategico, chiamiamolo così, tra le varie situazioni che si sono trovati con questi fenomeni, possa essere sicuramente qualcosa che ci dà uno sguardo d'insieme, che ci permette di avere una percezione comune da cui partire per finalmente avere ben chiaro, diciamo, delle coordinate su cui muoversi. All'ora di cena ci sarà questa cena sociale e per concludere poi l'evento un concerto con la Ballotta Continua e i Terrorist Bengala Party di Roma. Durante tutte le due giorni qui al Forte Prenestino sarà allestita anche una mostra con le tavole, diciamo, che sono inserite all'interno del libro Combatti la paura, perché per noi, diciamo, il discorso sul linguaggio e l'immaginario è qualcosa di fondamentale, è qualcosa che non può essere esclusivamente delegato alla memoria dei partigiani o dell'esperienza, diciamo, di resistenza fatta al nazifascismo, ma è qualcosa che va di nuovo indagata, è qualcosa di nuovo, un campo di ricerca aperto che noi, come dire, ci vogliamo praticare come una delle forme, diciamo, di antifascismo culturale che stiamo di fatto proponendo all'interno del festival, ma che sicuramente verrà raccolta anche da altri gruppi o altri che parteciperanno. Inoltre, durante questo festival abbiamo aperto uno spazio legato alle autoproduzioni, a quelli che sono i banchetti, i materiali, le inchieste che negli anni sono stati prodotti, e quindi il Forte Prenestino in quei giorni sarà un mischiarsi, diciamo, di materiali di controinformazione, opuscoli, insomma tutto quello che è stato il materiale prodotto sull'antifascismo e l'antifascismo militante o culturale, diciamo, che vi si voglia. In chiusura, una curiosità: questo festival produrrà anche dei materiali consultabili? Sì, sicuramente verranno pubblicati degli estratti delle discussioni. L'obiettivo del festival è quello di iniziare anche una serie di cicli di incontri che in qualche modo possano partire così in grande con un festival, ma che poi possano contaminare altri ambiti di discussioni legati a altri spazi sociali, collettivi, gruppi, non solo qui a Roma. C'è stato già un buon riconoscimento da parte di questo su tutti i diciamo, i collettivi, i gruppi, le strutture che fanno parte, diciamo, di questo quadrante di Roma, di Roma Est, che si sono incontrati in un'assemblea molto partecipata. Questo sicuramente è un buon segnale rispetto alla percezione, diciamo, che c'è bisogno di ripensare l'antifascismo e c'è bisogno, diciamo, anche di avere anche degli strumenti comuni per riuscire a organizzarsi insieme. In conclusione, ci lasciate anche dei riferimenti web per avere maggiori dettagli? Allora, il nostro riferimento è su Facebook e ci chiamiamo Azione Antifascista Roma Est e lì pubblichiamo, diciamo, le nostre attività e ci sono anche, diciamo, i link agli eventi che stiamo proponendo e inoltre abbiamo creato un canale Telegram sempre dal nome Azione Antifascista Roma Est, che è pubblico e su cui postiamo il materiale di propaganda o anche, diciamo, appuntamenti di cui ci facciamo promotori. Benissimo. Ricordiamo la prima edizione dell'Antifa Roma Festival a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, 13 e 14 ottobre. Un saluto e un ringraziamento ad Azione Antifascista Roma Est. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi.